Garibaldi fu ferito, fu ferita ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da gennaio ad agosto del 1827. Grecia cade, Atene, la comunità internazionale verso il soccorso ai ribelli. Lo stato di New York abolisce la schiavitù e nasce il primo settimanale degli afroamericani. Terremoto al vertice della polizia francese, Vidocq si dimette da capo della Sûreté. 2000 copie in due mesi per il romanzo I Promessi Sposi, ma l'autore non è contento. Una buona giornata da Simone Spezia, dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura l'attualità dall'estero e la situazione in Grecia, dove dopo la caduta definitiva di Atene la comunità internazionale sta pensando di intervenire. L'opinione pubblica europea era già stata abbastanza scossa dalla morte di Lord Byron e dalle atrocità commesse dai turchi, in particolare all'assedio di Missolungi, dove 3.000 teste mozzate di greci sconfitti sono state esposte sui bastioni della città dopo la conquista ottomana. Poi c'è stato l'assedio di Atene e quello dell'Acropoli. Le vecchie mura non hanno retto all'impatto delle truppe di Ibrahim Pascià. I quadri di Eugène Delacroix sul massacro di Scio e sulla caduta di Missolungi, le opere di Chateaubriand e di Hugo sono altrettante testimonianze della tensione antiturca che percorre ormai la società europea, quella liberale come quella reazionaria. E quindi anche i monarchi si sono decisi a rispondere, pur tra mille prudenze. Il 6 luglio è stato stipulato il Trattato di Londra. Francia, Russia e Regno Unito hanno riconosciuto l'autonomia della Grecia, anche se come stato vassallo del suzerain ottomano. Le tre potenze si sono accordate per un intervento limitato, mirato a convincere la Sublime Porta ad accettare i termini del trattato. L'idea è quella di una spedizione navale dimostrativa. Paolo Piacenza, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Ci spostiamo negli Stati Uniti, dove lo stato di New York ha deciso di abolire la schiavitù. La legge prevede eccezioni, come per esempio quella di consentire ai non residenti di portare gli schiavi nello stato, tenendoceli però per non più di 9 mesi. E proprio in questo anno così importante e nella città di New York è stato fondato ad opera di John Brown Rathworm il primo settimanale di e per gli afroamericani, il Freedom Journal. Nel primo editoriale, apparso prima del varo della legge abolizionista, c'erano già indicazioni molto chiare. Per troppo tempo era scritto: altri hanno parlato per nostro conto. Il cambio della guardia al vertice della polizia con l'arrivo di Marc Duplessis ha messo in crisi la Sûreté guidata dall'ex criminale François Vidocq, il quale, dopo anni di successi nella lotta appunto alla criminalità, ha rassegnato le dimissioni. La struttura è composta in gran parte di ex detenuti e si basa proprio sull'infiltrazione negli ambienti criminali. Sono bastati 2 richiami affinché i suoi agenti smettessero di frequentare luoghi di dubbia reputazione a convincere il detenuto a lasciare. Sta riscuotendo un buon successo, 2000 copie vendute in 2 mesi, il romanzo da poco pubblicato, I Promessi Sposi, storia milanese del secolo XVII, scoperta e rifatta da Alessandro Manzoni, ma a quanto sembra l'autore non è soddisfatto. Il linguaggio utilizzato nell'opera, secondo Manzoni, sarebbe troppo lombardo, così ha deciso di spostarsi per qualche tempo a Firenze e con gli amici si sarebbe confidato usando una frase molto efficace: vado a risciacquare i panni in Arno. È tutto per questa edizione del Gazzettino del Risorgimento. Sul nostro sito il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, c'è il nostro blog, c'è la nostra pagina Facebook e c'è l'indirizzo gazzettino@radio24.it al quale con penna e calamaio elettronici potete scrivere. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione, l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.